Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Mille Volte No, storie di donne resistenti, del collettivo teatro Macchia Rossa. Mi sto abbastanza abituando a stare qui e non credo che sia merito mio, ma che questi posti siano fatti in modo tale che le persone si abituino a starci. Lo scorrere del tempo è davvero strano. Le singole giornate sono interminabili, ma i giorni si susseguono rapidamente e mi sembra sempre di essere stata arrestata la settimana scorsa. Forse il fatto di non ricevere notizie dall'esterno e di non avere nessun contatto con il mio mondo mi fa sentire in una specie di bolla sospesa. È un po' come se per me il tempo si fosse fermato. Non c'è un prima né un dopo, ma solo il dentro e il fuori. Sono due mondi assolutamente incompatibili e la mia mente non riesce a collocarli sul medesimo asse temporale. Non ho mai un'idea precisa di che ore siano. Il cambio della guardia della sera per me segna la fine della giornata. Arrivare fino a quell'ora ogni giorno è estenuante e dopo quell'ultimo rituale che si svolge quando è già buio, più che addormentarmi direi che cado svenuta. Mi accascio sulla branda, svuotata di ogni energia, senza badare al bagliore pungente del neon. La luce della cella si può accendere e spegnere solo dall'esterno. Non so a che orario si compie il rituale di spegnimento delle luci e non rimango mai sveglia abbastanza a lungo da potervi assistere. Sotto alcuni aspetti è una situazione d'altri tempi, assolutamente inusuale, nella nostra era digitale, nell'epoca della comunicazione e dell'informazione globale. È insolito non sapere per settimane che ore siano, quando normalmente ti basta un leggero tocco dell'indice e ti appaiono immediatamente i minuti, luminosi e colorati. È strano trascorrere lunghi mesi senza scambiare una sola parola, neanche con le persone più care, nemmeno una lettera scritta a mano. Quando fino al giorno prima bastava muovere il pollice sullo schermo del telefonino per comunicare continuamente e contemporaneamente con tante persone diverse. È inusuale non ricevere nessun tipo di informazione dall'esterno, quando in ogni attimo della nostra vita siamo bombardati da notizie e messaggi provenienti da ogni parte del mondo. Sono caduta in un pozzo profondissimo. A volte mi chiedo se questo pozzo abbia un fondo e se da qualche parte ci sia davvero un'uscita. Le paure, in alcuni contesti in cui è in gioco l'autoconservazione, non sono da fuggire o allontanare, ma vanno curate e percepite nitidamente perché potrebbero essere la chiave della tua salvezza. Quando ti trovi sola, con te stessa, a raschiare la melma nel fondo del pozzo, quando la paura si fa terrore perché non hai idea di cosa ti stia per succedere, allora scorgi in te stessa risorse che non sapevi ti appartenessero. Ma qui ciò che davvero ti permette di affrontare a testa alta le privazioni e le umiliazioni quotidiane, di mettere in salvo il ben dell'intelletto, ossia il tesoro più prezioso che esista qui, dalla voracità di quel mostro chiamato follia, è più semplice e al tempo stesso più complesso di quanto si possa immaginare. È la capacità di discernere la schietta sincerità dalla menzogna mistificatrice, la consapevolezza profonda che dimora in fondo al cuore di quale sia la parte giusta della storia. Chiudo gli occhi e lancio lo sguardo oltre le mura di questo cieco carcere. Scorgo le vicende di uomini e donne come ricami in tessuti su arazzi che raffigurano storie più ampie. Storie di popoli, di culture, di lingue, di religioni, storie di sistemi economici, politici e giuridici, storie di ricchezza e di miseria, di potere, di sopraffazione e di sfruttamento. Storie di guerre e di eserciti, storie di un mondo in cui ancora si uccidono bambini, in cui alle porte d'Europa risuonano mitraglie che riecheggiano gli scempi del secolo scorso. Apro gli occhi e mi scorgo rannicchiata sulla grigia coperta, con lo sguardo fisso sulla porta di ferro della cella. Tutto mi appare semplice e lineare in queste vicende, come in molte altre. Non può esserci alcun dubbio su quale sia la parte giusta della storia. Come collettivo di teatro militante, noi solidarizziamo con i partigiani e le partigiane che si spendono contro i fascismi e contro i nazismi. Come Ilaria, come tutte le persone che lottano e manifestano a rischio della loro libertà, a rischio della loro vita. Come le combattenti curde che combattono e resistono sempre, protagonisti alla pari degli uomini in quell'esempio di democrazia autonoma che è il Rojava. L'unità di protezione delle donne, IPG, è la brigata femminile dell'unità di protezione popolare, IPG, in lotta contro le forze dello Stato islamico. Nonostante la totale assenza di sostegni internazionali, l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria è un esempio di lotta per il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Diritto che vediamo calpestato ogni giorno di più in terra palestinese, da almeno 75 anni. Le donne palestinesi partecipano da sempre attivamente alla resistenza e alla lotta contro l'occupante israeliano. La prima rivolta delle donne contro l'occupazione fu nel 1893, nel villaggio di Afula, contro la costruzione di una colonia ebraica. Fondamentale è stato il loro apporto nell'intifada, la rivolta popolare, la resistenza vera. Le donne ebbero un ruolo cruciale nella gestione dei comitati popolari sorti durante la prima intifada. Per le donne la lotta è sempre doppia: per la liberazione palestinese e per l'emancipazione femminile. Free homeland, free women, è il grido che hanno portato nelle piazze con il movimento Tal Aq. In una fase storica e politica come questa, in cui i valori della lotta partigiana vengono continuamente attaccati e messi in discussione, il collettivo Teatro Macchia Rossa ha pensato di realizzare un progetto dal nome Memoria e Lotta. Raccontiamo e portiamo in giro il patrimonio che ci appartiene, un patrimonio immenso fatto di passioni e lotte, di rivendicazioni e conquiste. Decenni in cui nelle città, nei quartieri e per le strade si respirava un'aria nuova. Con il progetto Memoria e Lotta intendiamo tenere viva la memoria della resistenza in tutte le sue forme, testimoniare delle lotte che hanno attraversato i decenni e che proseguono oggi, raccontare storie dimenticate il cui ricordo va riacceso. Ricordare è già lottare contro l'oblio, contro l'appiattimento su un eterno presente che, se slegato dal passato, perde anche il futuro. Un silenzio assordante, un fischio lacerante, un boato tremendo. Volo, sì, volo. Mi alzo da terra e cado appeso morto. Faccia in giù, sono stordita, le orecchie fischiano, sono come in un altro mondo, vattata, chiusa. Non sento dolori, non sento rumori, ho la faccia schiacciata sull'asfalto, l'occhio sinistro è gonfio e in un attimo si chiude e spinge verso il basso. L'altro vede la strada con la prospettiva di un piccolo animaletto che scappa impaurito. Vedo solo le gambe di uomini e donne che si muovono veloci. Nessuno si accorge di me. Come a rallentatore vedo dei grossi nuvoloni di polvere di cemento, vetri che cadono. Riesco a mettermi sulle ginocchia, ma fatico a trovare l'equilibrio. Tutto gira, gira, gira. La polvere mi avvolge e mi secca la gola. Fatico a trovare il baricentro. Saranno secondi, saranno minuti. Non riesco a fermare il tempo. Riesco a mettermi in piedi. Sento degli strani odori che mi circondano, ma le gambe mi tremano e non riesco a stare in piedi. Ah, l'orecchio mi fa male tanto. Ronza, fischia e copre i rumori. La bocca si bagna delle lacrime che hanno lasciato un solco nello spesso strato di polvere che mi avvolto. Barcollo. Un passo. Due passi. Oh, sembra che va meglio. E poi comincio a capire. Le bombe. Sì, le bombe. Un urlo, c'è quest'orlo dentro di me. Hanno bombardato. Hanno bombardato. Un fischio. Un botto. È più vicino. La tela trema sotto i piedi. Lo spostamento d'aria è più denso e mi alza come una foglia. Questa volta cado ancora più rovinosamente. E in una frazione di secondo penso, è fatta, muoio. Seguo come ipnotizzata la luce fioca di una lampadina che oscilla ogni boato di bomba, accompagnato dal tremare della terra sopra di me. Nel buio pesto di un rifugio, la mano di una signora prende la mia, come per darmi forza, come per darsi forza. Piano piano, con lentezza, riprendo conoscenza. O meglio, riesco quasi a riorganizzare le idee. Ma che ore sarà? E cos'è questo caldo asfissiante? E Lucia? Lucia dov'è? Inizio a percepire i primi suoni, i primi rumori. Sul fondo di questo budello sotterraneo vedo delle donne. Non distingo la loro età, sento solo che pregano in maniera disordinata. Ognuna va per conto suo. È una preghiera isterica, quasi senza senso. È uno sbrigarsi a raccomandare l'anima a Dio. Dei ragazzi impauriti sono come delle statue di sale. Chissà. Forse prima facevano i complimenti a una signorina di passaggio. Un signore è preoccupato per la moglie, piange e si dispera. Vuole scappare da questa trappola, perché sa che è una trappola. Se bombardano la chiesa, viene giù tutto. La chiesa. E io che ci faccio dentro una chiesa? Con un filo di voce e con estrema fatica, lo domando alla signora che mi tenne la mano. Che ci faccio qui? E come ci sono finita? Semplice. Mi hanno raccolto due omaccioni. Gli operai che avevo incontrato poco prima a Via degli Eboli. Gli scalpellini che facevano la strada. Così mi ha raccontato la signora che mi tiene la mano. Una mano grande, ma leggera e calda, che mi fa sentire meno sola. Forse avrà l'età di mia madre. E chissà se ha una figlia della mia età. Non lo so, so solo che questo calore umano adesso mi sta dando tanta forza, sì. Mi fa sentire meno sola, sì, meno sola. Questo covo di disperati, c'è chi urla, chi prega o impreca, chi maledice. Sono lamenti di uomini, donne e bambini, tutti accomunati da un'unica straziante tragedia. Fuori sembra che tutto tace. Ancora le sirene del cessato allarme non si sentono. Ma qui si sente come la puzza di sudore, di vomito e di escrementi che rende l'aria irrespirabile. Il silenzio irreale di fuori però quieta gli animi e anche i bambini si calmano, come la lampadina che ha smesso di oscillare. Lunghi, interminabili minuti, pensieri che corrono veloci. In un attimo lo stravolgimento di migliaia di vite. Lucia, Lucia, avevamo un appuntamento sotto casa sua. Cessa l'allarme. Come fantasmi ritorniamo in strada. La bella signora prende un foulard dalla sua borsetta e lo bagna dell'acqua che scorre come un fiume da una tubatura rotta che esce dal sottosuolo. Mi bagna il viso e mi toglie i due rigagnoli che prima avevano solcato il mio volto. Mi toglie come può la polvere dai capelli e dal mio bel vestitino nuovo comprato apposta per l'occasione. La prima azione da partigiane la volevamo fare a Carinelle. Con Lucia se l'eravamo detto, dovevamo fare bella figura. Un tubo del gas sventrato dai carcinacci di un palazzo lancia una lingua di fuoco altissima che emana un cattivo odore acre. La bella signora mi guarda e mi saluta pensierosa. Abito proprio a Piazza Bologna, al 36. Si via da quelle parti viene a trovare, che mi fa piacere. Mi chiamo Rosa, Rosa Morganti. Mamma, torna a casa. Vai dai tuoi genitori che te stanno aspettando, staranno un pensiero. Mi saluta come una persona cara e nel camminare si gira un paio di volte per vedere che faccio. Ma che faccio? Ma che faccio? E Lucia, Lucia, ando sta? Lucia! Ando sta, Lucia? Ma pure la borsetta mia, ma dove sta? E gli sordi? I documenti? Vabbè, ci penso dopo. Adesso mi devo mettere alla ricerca di Lucia. E mi devo sbrigare. Oddio, ma che ore saranno? Oddio, Lucia, per quel vestito nuovo che se siamo comprati insieme. Via degli Ausoni. Via degli Ausoni. Ma dove sta? Dossa! Mentre guardo la signora che si allontana, la osservo e penso, chissà qual è il motivo che l'ha portata a San Lorenzo. Forse la borsa nera o le sigarette. Non lo so, e qui non ci si capisce niente. Chi scava fra le macerie per cercare un parente vivo, chi cerca casa è disperato, chi è disperato è e non sa che fa. Mi guardo intorno e vedo solo rimasughi dei palazzi. Da una parete che sarebbe già malapena sporgono gli pensili di una cucina che sarebbero non si sa come, una stanza da pranzo. Vedo lì tutta impaurita una poltrona nell'unico pezzo di pavimento che è rimasto, con sopra ancora il quadro a pennolone della Vergine Maria. Mi fa male tutto questo, sono occhio chiuso e gonfio, l'orecchio che fischia come in treno, lo stando lenzite e lividi per tutto il corpo e non so che fa. Però so viva. Una fontanella. Funziona. Acqua fresca, acqua fresca. Ah, me devo uscire qua. Il viso, il collo, i capelli. Ah, questa giornata in fausta, pure sto gallo m'ha ammazzata. Ah, Lucia, Lucia, me devo mettere a cercare Lucia. Vedo lì una sedia abbandonata, tutta rivoltata. Chissà a quale famiglia apparteneva, a quale palazzo. Questo palazzo c'è rimasto in niente. Solo sta sedia a fa da testimone. A me nessuno ci fa caso. Seduto su sta sedia so come uno straccio bagnato. Qui è un gran via vai di gente, c'è chi va, c'è chi viene, chi cerca un amico, chi un parente, chi è il fidanzato. Scusi, mi dice l'ora? Gli faccio a un signore che stava là con una pala in mano e quello mi guarda e un po' infastidito mi risponde: ah signore, ma mi dice a che gli serve l'ora? Ma non vede che a San Lorenzo il tempo si è fermato? Poi de fretta si avvicina, guarda l'orologio e mi dice: sono quasi ai quattro. Quasi ai quattro? Ma io mi devo sbrigare, mi devo mettere a cercare Lucia. E allora come la scena inizia a correre e vado al primo palazzo e controllo. Ma no, non è questo, no, e la ricomincio, ne cerco un altro. Ma no, non è nemmeno questo, e riparto verso un altro. Nemmeno questo, no, non è nemmeno questo, e rivado ancora. E questo? E questo, sì, è questo. Lo riconosco dal vini ogni che gli sta di fronte. Niente è rimasto del grande palazzo. Era il codice radio dei bombardamenti americani, che indicavano 20.000 piedi di altezza, sarebbero 6.000 metri. 6.000 metri di altezza, 4.000 morti. 20 angeli sul cielo di Roma. Lunedì 19 luglio, ore 11:02, 1943, San Lorenzo crolla. San Lorenzo non c'è più. E con lui è sparita anche Lucia. Ma sai che stavo a pensare ieri? Ci stavo a pensare proprio ieri a questa cosa, che quella della resistenza al femminile, al pari e più di altre realtà di genere, è un argomento difficile, sottaciuto e sottovalutato per decenni. La lotta contro il nazifascismo è stata quasi sempre rappresentata al maschile, relegando le donne a ruoli per lo più secondari. Eppure, e io proprio su questo riflettevo ieri sera, senza le donne la resistenza non ci sarebbe stata proprio. E che anzi le donne furono la resistenza dei resistenti, perché senza le donne sarebbe venuta meno tutta l'organizzazione clandestina, e senza le staffette la vita dei partigiani sarebbe stata molto più difficile. Erano loro che portavano armi, medicine, cibi, periodici e anche i famosi chiodi a quattro punte, spesso a rischio della loro stessa vita. Fu anche a causa loro che i tedeschi temettero l'uso delle biciclette. Vero. Tanto che ne imposero il coprifuoco a Roma durante l'occupazione. Si dice sempre: il contributo delle donne alla resistenza. Eppure a nessuno verrebbe mai in mente di dire: il contributo degli uomini. Le donne hanno fatto parte della resistenza a pieno titolo, con ruoli attivi, politici, militari, logistici, strategici. Non ne hanno solo preso parte. È proprio vero, Maria. Drin, drin, drin, drin. Ammazza come eravamo matte io e mia sorella. Su e giù con ste biciclette, con ste sporte piene di cose pericolose. Mia sorella guidava scomposta e poi rideva, cantava e suonava sempre il campanello. Drin, drin, drin. Anita, mia sorella, che già faceva la staffetta partigiana, un giorno mi porta dal comandante de zona e mi raccomanda, dicendogli che ero una in gamba e che potevo fare la partigiana. Quello mi guarda dall'alto in basso e con una faccia indifferente, come se mi stava a snobba, gli fa a mia sorella: ma chi m'hai portato? Ma non la vedi che è una ragazzina? Allora io mi sono rivoltata e gli ho detto: guardi signor comandante, che io a 8 anni già facevo la partigiana e la famiglia mia è tutta partigiana. E Anita rincara la dose. Se la prende non se pente, perché è proprio brava, garantisco io. E così, da quel giorno, sono diventata staffetta partigiana. Ma ce lo sapete perché? Perché gli ho detto che io a 8 anni già facevo la partigiana. Eh sì, perché quando stavamo in terza elementare, qui alle scuole di Casal Bertone, io e Deborah stavamo sempre allo stesso banco. Eravamo come sorelle. Pensate che abitavamo allo stesso palazzo. Un giorno venne una supplente, una tipa giovane, invasata, vestita da giovane italiana, con una fascia tricolore al petto con su scritto Benito Mussolini per volere del regime. Ogni volta che si cominciava una lezione bisognava dire per Benito Mussolini, eia, eia, alala. E invece i fedeli antifascisti dicevano per Benito Mussolini che lo possi ammazza. Insomma, sta fanatica del Duce comincia a fare l'appello. E quando scopre che Deborah era ebrea, gli dice da restare in piedi e incomincia a inveire contro gli ebrei. Poi, finito l'appello, prende l'amichetta mia per le lunghe trecce che ci aveva e gliele lega strette strette alla finestra per aria. Porella Deborah, con le trecce che gli tiravano la cute, soffriva e noi insieme a lei. Poi sta maestra ci ha detto da fa un tema sugli ebrei e di quanto erano cattivi. Noi ragazzine, sì, perché all'epoca le classi erano divise tra maschi e femmine, insomma, noi ragazzine se guardamo e con gli occhi se capimo. Niente, tutte a braccia conserte, niente tema. Poi, quando la maestra ha ricominciato a fare la dittatura, a quel punto gli siamo saltati addosso. Chi la graffiava, gli tirava i capelli, gli dava le carci. E nel frattempo due di noi liberavano Deborah. Insomma, finito sto paraviglia, la maestra avvelenata ci ha cacciato via. A noi non ci pareva vero. Arrivate al portone e il portiere ci guarda e ci fa: ma dove andate? Mica si può. E allora noi gli abbiamo raccontato tutta la storia e la moglie si è messa a curare Deborah. Sì, perché loro erano i custodi, abitavano là. Insomma, alla fine ci hanno mandato a casa. Io però sta cosa non l'avevo mandata giù e ho detto all'amichetta mia: dovemmo fare un volantino e far sapere a tutta la scuola quello che è successo. E loro mi dicono: e come famo? E io: sentite, c'ho uno zio Regina Celi e un altro confinato, tutti e due antifascisti. Volete che non lo trovo il modo di fare i volantini? Allora, nel giro dei pochi giorni, ho fatto sto scritto, insieme a mia sorella che faceva la quinta elementare. E poi, con l'aiuto di tutte le amichette della classe, abbiamo messo sti volantini dentro le cartelle di tutti gli scolaretti e le scolarette. E il giorno dopo, non vi dico che casino, sono venuti gli ispettori del fascio e hanno detto alla preside: qui dentro solamente due ragazzi possono fare questo e sono le nipoti dei due antifascisti carcerati, le dovete espellere o loro o due a caso. Allora la preside ci ha chiamato e ci ha detto: fatto, che volete fare? E così noi ci siamo prese la responsabilità e allora ci hanno allontanato da scuola. Quello però è stato un periodo di bellissimi ricordi, perché ogni giorno a casa nostra veniva una compagnetta di classe e facevamo i compiti insieme e Deborah e il fratellino stavano sempre con noi. Ormai eravamo una famiglia sola. Poi però sono venute le leggi razziali e le deportazioni e anche Deborah e il fratellino sono partiti. Io li ho aspettati tanto, ma non sono ritornati. Ecco perché a 8 anni sono diventata partigiana. Poi, quando eravamo un po' più grandi, avevo cominciato a fare sul serio. Mia sorella, in realtà, era già un po' che faceva sul serio, che rischiava la vita. Un giorno andiamo a prendere le biciclette in una ciclofficina che stava dietro casa, un negozio che noleggiava, vendeva, affittava biciclette. La bicicletta era il mezzo più sicuro e veloce per Roma. Il negozio era gestito da una famiglia di ebrei, ci conoscevano e lo sapevano per cosa ci servivano le biciclette. E quindi ogni volta che andavamo lì ci davano le meglio, quelle tutte messe a posto, di modo che viaggiavamo sicure. Insomma, prese le biciclette, andiamo a prendere i cesti con le cose da portare. Io non sapevo che cosa portava mia sorella e neanche dove era il luogo della consegna, e lei uguale. Insomma, prese le ceste, partiamo, tutte incoscienti e coraggiose come sempre. Mia sorella, che cantava, rideva, guidava scomposta e suonava il campanello drin drin drin, e io che andavo un po' più discreta, cercando di non dare l'occhio. Una volta uscita da casa Albertone sulla Tiburtina, te vedemmo un posto del blocco tedesco. Ormai non si poteva più tornare indietro, era come morì. E allora quella matta di mia sorella che fa? Gli va incontro, ridendo, cantando, suonando il campanello, drin, drin, drin. Una volta che arriva davanti agli tedeschi, uno di loro gli dice da fermasse, la guarda perplesso e in un perfetto italiano gli fa: cosa portare dentro quella cesta? Mia sorella, con un gran sorriso, gli risponde: bombe a mano. Il tedesco la guarda e resta in silenzio. Poi il tedesco fa un sorriso e ci dice che potevamo passare. Anita riprende la sua corsa, cantando, ridendo, suonando il campanello, drin, drin, drin. E io che non riuscivo a fare nemmeno due pedalate, fatti 100 metri, svoltato l'angolo, io ho fatto a mia sorella: ma te sei proprio scema, ma pensa se quello ci credeva, andavamo fucilate tutte e due. Lei, con un gran sorriso, mi ha risposto: se vediamo dopo, a casa. E ognuna ha ripreso la strada sua. Che guaio! Uè, Uè, ma tu ero sì, ma sei siciliana? Sì, di Palermo, e tu? Io sono che Napoli, ma tu come sei venuta a finire in mezzo a sto fiero, la Palermo? A guerra fu. A guerra. Un merrione fu disciolto, tutto, non hai più niente, non hai una casa, non hai un travaglio, niente, e stiamo morendo di fa. Pure noi siamo scappati dalla guerra. A me un frate è morto carcerato. E noi frate in guerra. Ci stiamo puzzando di fame, da sta guerra non ce la facciamo più. Maledetta sta guerra! Maledetti sti tedeschi! Maledetto sto governo! Ma che vi strillate, ma che vi strillate? Ma non lo sapete che qua è pieno di spie che per due soldi si venderebbero pure la madre? E poi là dietro c'è la caserma della polizia africa italiana. Ma vi volete mettere in mezzo agli impicci? No! Volete me? No! Strillate, strillate, ma che vi strillate? Fate meno caciara e fate più faccia! Cioè? Domani con le madri del rione andiamo al forno Marietti, quello sulla Tuscolana. Sì. Se andiamo a prendere la farina e il pane per i figli nostri. Se siamo stancati ad aspettare. Venite con noi, no? Sì, venite sì. Invece di star qua a piangere addosso. Sì. Curriti, curriti, ammazzare i vostri figli, curriti! È Beppino che parla, un ragazzo della borgata alessandrina. È sciavolto, fetoso, infangato, c'ha una faccia da pazzo, si batte i pugni in testa e ripete: correte, hanno ucciso i vostri figli laggiù a Ponte di Nona, sono stati i tedeschi, sono stati i tedeschi! E la disperazione. Emanuela, Giuseppina e Lisa, che abitano tutte una attaccata all'altra, no, che quelle case i mariti le hanno costruite, si guardano, non parlano. Quegli sguardi sanno, conoscono i loro figli, i figli di quelle borgate. Si guardano, non fiatano, tirano su lo scialle della testa e accominciano a camminare da via delle Ciliegie su per Tordeschiavi ancora verso la Prenestina, oltrepassandola e ancora verso la campagna, su una strada sterrata, china di privolazzo, l'usuli e lo cavolo d'aprile. È quasi maggio, il mese delle rose. Sì, il mese delle rose. Ah, signor! Gli fa Giuseppina a certe che stanno raccogliendo la cicoria. Ma che sapete qualcosa di una sparatoria? Ma come no? Ma è meglio che non ci andate! I tedeschi hanno sparato e si dice che sotto al ponte ci stanno due pochi ragazzi morti! Ah, signora bella, è un vero strazio! Fa quell'altro. A ste parole, a tutte e tre, ci vennero i brividi. E a cominciare a sudare. Quanto dolore dentro sti curuzzi. Gli occhi sbarati, Catalino nel vuoto. E passo sverto, come un risultato. E una preghiera per la Marunnuzza. Per salvare dei guai una povera figliuzza. Ma questo pensiero fu vano. Perché su talo punti di lontano due corpi stanno abbandonati nel pantano. Lo cuore batti forti, forti come una campana, e la speranza non è una cosa vana. Finché giunti là davanti non c'è tempo di tante cerimonie. Tocca capire, tocca sapere. Si è girata la faccia, che giaceva già nel fango. Lisa s'accascia sopra a Vincenzo su. E ci pulizia la faccia, uno scialle, ci parla, ci impreca di susirsi. Ma Vincenzo non può sentire più, non può sentire più le tante imprecazioni, non può sentire i dolori che prova quella donna. L'auto mischino è un povero picciottello, tutto iccato un talofano, pari un fagottello. Pare in busciacci abbandonati. E solo un momento di ricordo vago. Rivedono quei due tutti spensierati parlare di femmini e di cose di fare. Ma tutto finisce all'ombra di quel po'. È quasi maggio, il mese delle rose. Sì, non mi si dice il rose. Le altre due donne meschine non si donano pace, vanno a sapere uni sui loro figli e cominciano a girare per caserme, per questure, per spitali. Si dice che i tedeschi le picchiano. Girano ormai da quasi 4 giorni, hanno perso le tracce e pure le speranze. Ma si sa che lo destino è cinico e giunte al policlinico, su un tavolo freddo di marmo stanno curcati quei poveri corpi, tutti massacrati. Ora si capisce che è successo. E torturare finta una cella angusta già in quello schifo di via Tasso. Chissà è la sorte che gli attocca, a chi fino alla morte non vuole parlare, la bucca nulla vuole grappere. È fine aprile, quasi maggio, il mese delle rose. Sì, non mi si delle rose. Michele e Antonio sono figli di Emanuela. Stanno accanto a Enna, che è figlio di Giuseppina. Accanto a loro c'è anche un altro ragazzo, un amico fraterno. È Coros Costantino, che insieme a Menotti e a Vincenzo Cacchioni si spartiero ideali e puro passioni. Giocavano alle palloni dentro la borgata e poi tutti insieme la iavano all'osteria a vivere e a cantare tutti in compagnia. Vivevano la vita come una scommessa, facevano il filo a una picciottetta, erano allegri e sempre spensierati. Fino a quando lo destino li canciò. Hanno capito qual era il pericolo quando si sono trovati il nemico dentro casa. E allora non era più tempo di giocare. Eppure che non ci piaceva, avviano a crescere, avviano a diventare grandi, s'avviano a fare uomini. È quasi maggio, il mese delle rose. Sì. Lumissi, Lili Rossi. 70.000 appartenenti ai gruppi di difesa della donna, 35.000 partigiane combattenti, 512 commissarie e comandanti, 4.653 arrestate, torturate e condannate, 623 cadute e fucilate, 2.750 deportate in Germania, 16 decorate di medaglia d'oro, di cui 12 alla memoria, 17 decorate di medaglia d'argento. Che cosa aggiungere a queste cifre, tanto drammatiche quanto significative? Eppure queste cifre che tanto impressionano non dicono e non possono dire tutto. Neanche questo libro può dire tutto. Può testimoniare pienamente i sacrifici, l'eroismo, un tessuto di modestia e di naturalezza, l'enorme bagaglio di umanità e di coscienza di ognuna di queste donne. Ragazze, non ancora ventenni, o mamme più avanti negli anni, che hanno resistito, che a un certo momento sono insorte in una lunga insurrezione durata mesi e anni, per talune 5, 10, 15 anni. Non erano nate per essere delle eroine, né per portare ed usare le armi, per affrontare dei rischi inimmaginabili, barbare torture, la fucilazione, la mutilazione, l'impiccagione. Erano nate per un altro destino, per essere ragazze serene e capaci di cogliere la spensieratezza della gioventù, o mamme felici, seppure le condizioni di tante loro famiglie non permettevano né spensieratezza né felicità, ma imponevano sin dai primi anni una lotta dura, sacrifici pesanti. Li avevano affrontati questa lotta e questi sacrifici con semplicità, con la stessa semplicità che li ha poi trasformate in combattenti per la libertà, in protagoniste ammirate di una pagina della storia d'Italia che più passa il tempo e più ci appare grande per quello che ha significato allora e per quello che significa oggi. Sentiamo assieme che la guerra di liberazione non era una guerra come le altre, e non lo era per due motivi essenziali: perché era il popolo a combatterla e a dirigerla, e perché non si sarebbe conclusa nel giorno della resa dei nazisti e dei fascisti. Questa lotta sarebbe andata avanti in pace per costruire un'Italia nuova, diversa, profondamente rinnovata in tutte le sue strutture. Era questa coscienza e la convinzione che con la loro lotta le donne, tutte le donne, si conquistavano il diritto non a retorici riconoscimenti, a medaglie, ma all'uguaglianza effettiva. Era questa coscienza che amava le donne della Resistenza. Era questa coscienza che le rendeva forti e capaci di imprese che sono state meravigliose, proprio perché non sono state l'espressione di atti singoli di coraggio, ma di una maturità collettiva. Senza queste donne, penso non solo alle partigiane, alle gappiste e alle staffette, ma alle donne che animavano le manifestazioni nelle città e nelle campagne, che sfidavano i fascisti con gli scioperi, che facevano delle scuole, delle cittadelle della libertà. Tutta la storia del movimento partigiano non si sarebbe sviluppata così come si è sviluppata, e completamente diversa sarebbe stata tutta la storia d'Italia. Intellettuali e artiste di ogni età, ed estrazione sociale entrano a far parte della stampa e della diffusione clandestina per la difesa dei gruppi della donna e per l'assistenza ai combattenti per la libertà. Organizzano corsi di formazione tecnica e politica, formano reti, vivono la consapevolezza della giusta causa. Entrano in clandestinità, fanno le staffette, le partigiane, conquistano un'arma sul campo. Alcune di loro diventano comandanti di bande partigiane come Valchiria Terradura, che a 18 anni è a capo di una squadra. Sì, vabbè, ma accanto a queste donne famose ce ne furono anche tantissime che rischiavano la vita senza imbracciare un fucile, nelle loro case o nei posti di blocco durante le perquisizioni e le retate. Erano le donne a nascondere i clandestini, ad aiutare gli ebrei, a nutrirli, a curarli. Ed erano le donne impiegate alla posta, quelle addette alla cernita della corrispondenza, che nascondevano le lettere che i delatori inviavano ai comandi tedeschi per denunciare gli antifascisti e a rischio della loro stessa vita informavano gli interessati. E sono sempre le donne ad avere un ruolo attivo nell'organizzazione degli scioperi. E sono ancora loro che, in assenza degli uomini, fanno la fila per il pane con la tessera non aria e organizzano gli assalti ai depositi di derrate alimentari. Decine di persone si misero in fila per chiedere pane e farina. Si sapeva che il mulino produceva pane per i militari tedeschi. Le donne dei quartieri limitrofi, Portuense, Ostiense e Garbatella, avevano scoperto che il forno panificava pane bianco e che probabilmente aveva grossi depositi di farina. La folla cominciò a reclamare il pane. I cancelli del forno furono sfondati e molte donne riuscirono ad entrare. Il proprietario del forno lasciò che esse entrassero e che si rifornissero di pane e di farina. Ma qualcuno avvisò la polizia tedesca, che arrivò quando le donne erano ancora sul posto. I militi fascisti presenti chiesero l'intervento delle SS tedesche, le quali arrivarono, bloccarono la strada. Molte donne riuscirono a fuggire, ma 10 di loro furono prese, portate lungo il ponte e lì fucilate contro la ringhiera. A monito della popolazione, i cadaveri furono lasciati sulla spalletta del ponte, fino alla mattina successiva, quando alcuni lattonieri e sfasciacarrozze furono obbligati a caricarne le salme su di un carro. Da allora non si seppe più dove furono portati e sepolti. Durante un assalto, quello avvenuto il 2 maggio, a seguito delle manifestazioni, una guardia della PAI, Polizia Africa Italiana, accorsa per sedare i tumulti, uccide con una fucilata una donna del Tiburtino Terzo, Caterina Martinelli, madre di 6 figli. Caterina cade a terra sul selciato, con 6 sfilatini nella borsa della spesa, una pagnotta stretta al petto e in braccio una bambina ancora lattante. Caterina cade a terra sopra la figlia, che sopravvive. Il giorno dopo, un cartello antifascista ricorda la vittima. Quel cartello, fatto subito rimuovere dalle autorità, ritornerà come lapide a Roma liberata. Mario Socrate, partigiano, gappista e poeta, così testimonia di quell'episodio. Ci fu l'assalto al forno e uno della PAI sparò e uccise una donna. E allora noi facemmo una manifestazione e il giorno stesso ho scritto la lapide. Scrissi il 2 maggio del 1943, per chiedere il pane per i propri figli durante un assalto al forno, venne uccisa dalla violenza fascista Caterina Martinelli. Mi sembra giusto ricordare, anche se è abbastanza noto, l'episodio che vide protagonista Teresa Gullaci, la madre romana che un ufficiale tedesco uccise a colpi di pistola davanti alla prigione dove era rinchiuso il marito. Verso la fine di febbraio del 44, le SS operarono massicci rastrellamenti nella capitale occupata. Migliaia di cittadini incapparono nelle loro reti e furono radunati in una caserma in Viale Giulio Cesare. Davanti a quella caserma, per tutto il giorno, era un via vai di donne. Erano le mogli, le madri, le sorelle, le fidanzate, che andavano spinte dall'ansia di sapere qualcosa sulla sorte dei loro cari. L'organizzazione femminile clandestina non poteva rimanere insensibile a quell'appello disperato. Fu deciso allora di radunare in quel luogo il maggior numero di donne possibile, da ogni parte di Roma. Un volantino venne diffuso in tutti i quartieri romani. L'obiettivo era di ottenere, con una decisa azione di protesta, il rilascio immediato dei prigionieri. Il risultato superò di gran lunga ogni aspettativa. La mattina del 3 marzo, giorno fissato per la manifestazione, il viale Giulio Cesare nereggiava di folla. Erano migliaia di romane che chiedevano ad alta voce l'immediata libertà dei prigionieri, i quali a loro volta chiamavano le loro donne dalle finestre. Nella confusione generale, nel vocio assordante, spiccò a un tratto un nome di donna scandito da un gruppo di prigionieri affacciati alla finestra del secondo piano. Teresa! Teresa! Teresa! Fu allora che la vidi. Una giovane donna, la figura un po' appesantita dalla maternità, lanciarsi in avanti, teneva in mano un involtino di carta, un pagnottino. Giunta sotto la finestra dove era rinchiuso il marito, fa per lanciarlo Ma il tentativo fallì. E il piccolo pezzo di pane ricadde nella polvere, nel marciapiede. Una mossa istintiva, dettata più dalla fame che in quel periodo ci attanagliava tutti, che ci faceva sembrare una pagnotta, il tesoro più prezioso del mondo. Teresa si lancia ancora in avanti, raccoglie l'involtino da terra, sta per rilanciarlo, quando un tedesco l'afferra, la scaraventa a terra, e lì freddamente le spara alla testa. Due, tre, quattro colpi di pistola. Teresa cade, il sangue arrossa il marciapiede. L'urlo altissimo del marito che dalla finestra assiste alla scena copre per un attimo ogni altro rumore. Poi le urla indignate delle donne: vigliacchi! Vigliacchi! A sera, il punto in cui è caduta, il corpo di Teresa è completamente coperto di fiori. Li hanno portati le donne, gli abitanti dei quartieri, hanno spogliato tutti i fiorai vicini, hanno radunato tutti i fiori che sono riusciti a trovare. Nel pomeriggio, due militi fascisti che stazionano lì davanti vengono uccisi a colpi di pistola. Via della Luce. Dalle nostre parti c'erano molte famiglie di ebrei. Ci conoscevamo tutti, eravamo amici. I nostri figli giocavano e crescevano insieme. Per noi non c'era proprio differenza fra ebrei e cristiani. Con i Polacco poi eravamo in amicizia particolare e abitavamo proprio di fronte, loro qui e noi qua. Il giorno del 16 ottobre i Polacco non erano in casa. I genitori erano fuori Roma e il loro bambino dormiva dai nonni che abitavano in un'altra zona della città. Quella mattina, era da poco passata l'alba, dalla strada si sentiva un gran trambusto, rumori di camion e l'inconfondibile suono delle voci tedesche. Nel palazzo cominciò l'agitazione. Gli uomini correvano per le scale per scappare dai tetti. Pensava sempre che le retate fossero per gli uomini. Dalle finestre vedevamo i tedeschi intenti a consultare dei fogli che tenevano in mano. Sembrava qualcosa di diverso dal solito. Qualcuno mi disse: vai tu, scendi a vedere che sta succedendo. E così io scesi. Vidi due grossi camion tedeschi in un piccolo largo davanti casa nostra. Ma dentro vi erano già delle persone. Mi avvicinai di più e rimasi impietrita. Non vi erano solo uomini, ma donne, vecchi, bambini, gente spaurita e piangente. In mezzo a quella confusione, mentre mi guardavo attorno, a un certo punto lo vidi, piccolissimo, per mano alla zia. Vedi Vittorio, un bambino di neanche 2 anni, il figlio dei miei amici, dei miei vicini, dei polacco. Certamente i tedeschi provenivano dalla zona in cui abitavano i nonni. E infatti lì c'erano anche loro, insieme a tutte le persone della famiglia che abitavano insieme a loro. Ma Vittorio no, quello era lì per caso. Fu un impulso più grande di me. Cominciai a gridare: quello no, quello è mio figlio! E cercavo di afferrarlo. Il bambino, per fortuna, mi riconobbe e probabilmente scorgere un volto familiare visto tante volte a casa sua lo rasserenò. Mi sorrise, mi si avvinghiò al collo. Ci aiutò anche l'arciprete. Alla fine il tedesco si convinse e me lo consegnò. Mentre scappavo verso casa con il bambino in braccio, vidi i tedeschi cominciare a caricare tutte le famiglie ebree della mia via sui camion. Quando la madre di Vittorio tornò, sconvolta per non avere ritrovato nessuno dei suoi parenti, e io potei consegnarle il figlio, quasi non riuscivo a crederci. E infatti è una storia che ha dell'incredibile. Il caso, o il destino, o Dio, come lo si voglia chiamare, ha fatto sì che proprio il camion su cui era Vittorio passasse dalle nostre parti, che fossi stata io a scendere giù, che io avessi riconosciuto il bambino e che lui abbia secondato il mio gesto. Io avrei tentato comunque di salvarlo, ma se non mi avesse riconosciuta sarebbe stata ben più difficile. Vittorio adesso è un ragazzo e probabilmente non si ricorda di niente, ma la storia gli è stata raccontata. Ogni volta che mi vede mi chiama mamma. Sei pronta a perdere, Maria? Oggi Maria! Bandiera. Oggi te fotto, guarda. Sei pronta? Te lo dico già. Numeri! Dai, numeri! Dai, 1! Ah, sei diventata brava tutta assieme. E che te credi, è bella, è mia, mica sono tutte come te, sa? Eh? Ma capito? Ma sembra la stessa, se ma cambi mai. Tutto invece sei diventata. Vabbè, facciamo finta di niente. Ti ricordi quando eravamo ragazze? Quando eravamo Quante storie che abbiamo conosciuto? Tante. A un certo punto ci hanno raccontato la storia di Gloria. Gloria Chilanti. Voi la conoscete questa storia? Qualcuno per caso la conosce? La conosce? No. Vabbè, noi siamo qui apposta. Allora, a Roma la 13enne Gloria Chilanti entra in clandestinità e fonda un'organizzazione clandestina di giovani e adulti intellettuali. Gloria è capo indiscusso dei COBA, un organismo militante formato da ragazzini antifascisti. Lei e la madre continuano però a girare per Roma alla ricerca di cibo, continuando a dipendere dalla borsa nera per sussistere. Il padre Felice è uno dei redattori del Bandiera Rossa, famoso foglio clandestino che circolava all'epoca. Venne il 23 marzo del 44 con l'attentato di Via Rasella. Dalle prigioni di Via Tasso partirono i detenuti per le fosse ardeatine. Quella notte le SS italiane della banda Koch fecero irruzione in casa di Gloria. Il padre fuggì per le terrazze. Le SS puntarono le pistole. Scrive Gloria sul suo diario: quella sera mia madre fu formidabile, inventando la storia che nel letto accanto al suo aveva dormito il suo amante Pietro. E così bene riuscita ad eluderli che non si sono nemmeno accorti che un grosso pacco di volantini era stato dimenticato sull'armadietto bianco. Fatevi SSS! C'aveva un banco dei fiori e li veniva. Mo l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato un due o tre notti fa, mi è parso di svegliarmi all'improvviso e di vederla come fosse vera. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spandeva una luce come in cielo. Ammazza come dormi, m'ha strillato. Oh, era proprio lei, ne so sicura. Era come quella foto che mio padre tiene sur con mo, dietro una fronna di parma secca tutta benedetta. Una ragazzetta che ride in camiciola col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io messavo a fare i sogni miei, per la sorpresa gli ho detto: ma te chi sei? Ma so tu madre, mi ha risposto lei. Forse che te vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di mamma? No, mamma, io ti chiamo come tu m'hai detto, solo che mi fa strano vederti al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo mai. Sono una signora, 32 anni, davanti c'ho una vita e ancora la partita non è finita. Lo sai, da quando che mio padre si è sposato con mia madre, che poi è la mia madrigna, sarà stato un 6-7 anni dopo la tua morte. A ste parole ho visto che stringeva un poco l'occhio, come quando si sta al sole troppo forte. Scusa, ma credevo lo sapessi, ma lei ridendo, senza manco farci caso, spavarda e spensierata mi ha risposto: ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasta quando l'ho lasciato. Quando strillavo, vennevo i fiori e mica mi stancavo. Giocavo con tuo padre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Però io con i fascisti non ci giocavo. Io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto e ha fatto un gesto come a dire: sei alta. Ma dimmi, mi fa, prima che vado via, che ne hai fatto della vita che t'ho dato giocando con la mia? Suo mondo l'avete un po' cambiato, sa società l'avete trasformata. La donna nuova è nata o non è nata? Insomma, in qualche modo ci avete vendicati? Arideva con l'occhio e con i capelli. Sembrava quasi lo facesse apposta, mi stava a piare in giro qua, puzzona. Rideva e aspettava la risposta. Ah, ma che so tutte queste domande? tu vada a rispettare, io sono più grande. Ma perché se mia madre t'approfitti, va bene che mo ci accampi i diritti che sei morta partigiana fucilata. Ma se mi fai svegliare, io da rispondo. Abbassa solo, cari mio fiato. Ma certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto i giornali. Meglio così, me fa lei. Allora si vede che è servito. Perché quello che mi hanno fucilato, io non ho strillato le frasi dell'eroe. Perché io pensavo a voi, che certamente avreste vinto la partita mentre io perdevo il primo tempo. No, ma aspetta un attimo, ti spiego meglio. Non è che qui avremo proprio già risorto, perché nella misura in cui c'è sai risvolto, a ste parole, qua ragazzetta di mia madre che si stava a pettinare davanti allo specchio, si è rivolta, mi fissa e mi domanda: ah, oh, ma insomma, mo, il popolo comanna? A sto punto sozzo un pata giù dal letto, con la mano mareggevo le mutanne e con l'altra cercavo di afferrarla e non potevo. E mi era venuta come una malinconia, perché non volevo che se ne andava via senza sapere bene com'era stata. Ma sei ragazza, come ti spiego? Il mondo cambia, ci vuole tempo, e il tempo se li mangia i sogni nostri. E allora lo sai io che faccio? Aspetto, e tutto quello che viene, e io lo accetto. Se la Roma vince, siamo contenti. I compagni sono sempre tanti, ma li sordi pochi. E mo non è più tempo per i giochi, perché sono sempre quelli che ci strappano le penne. Ma te non puoi capire, ma sei minorenne, se riviva, te davano 30 anni. E allora a ritorna da dove sei venuta, perché quelli che t'hanno fucilato qui ci fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, ma che non è aria. A ritorna con le altre ragazzine che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo cresciute. Non siamo più bambini. A questo punto mia madre si è stufata. Ha fatto due spallucce, un saluto, si è rimessa in saccoccia la sua gloria e se n'è andata a ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasta quando l'ho lasciato, quando strillavo, vennevo i fiori e mica mi stancavo. Giocavo con tuo padre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Però con i fascisti io non ci giocavo. Io lottavo. Siamo donne. Lavoratori, voi io con Giulio del collettivo teatro Macchia Rossa per presentare lo spettacolo Mille Volte No, storie di donne resistenti. Ben trovato. Beh, grazie, grazie a te, grazie a tutti, a tutte voi. Partiamo dal collettivo, ce ne parli? Il collettivo nasce quasi 10 anni fa, nasce anche casualmente perché siamo compagni che vengono dalle strutture sociali, dai centri sociali eccetera eccetera, e volevamo presentare, visto che abbiamo un percorso tutti di lotta abbastanza lungo, veniamo dal 77, dagli anni 70, volevamo presentare uno spettacolo legato proprio al 12 marzo del 77, la famosa manifestazione. Poi ci siamo ritrovati a lavorare sulle storie dei partigiani, prima qualche presentazione dei vari libri legati alla resistenza, e dopodiché è nato proprio grazie alla documentazione che c'era stata data. Abbiamo cominciato a lavorare su Bandiera Rossa, lo spettacolo dei ribelli delle borgate, e per qualche anno abbiamo portato in giro questo spettacolo. Volevamo proprio raccontare Bandiera Rossa perché Bandiera Rossa è stata la più grande formazione al di fuori del CNL. A Roma era una forte realtà che abbracciava poi tutte le borgate ribelli. Da lì sono nate tutta una serie di storie legate a tutte queste figure che hanno fatto la resistenza. Ci hanno chiesto di lavorare per la giornata della memoria, facendo appunto racconti legati alle deportazioni, agli ebrei, ma non solo, insomma, tutte quelle figure che sono state deportate. Parliamo dei prigionieri politici, parliamo degli omosessuali, di tutte quelle figure, insomma, che poi non vengono mai citate nei libri delle commemorazioni. E dopodiché, questo è uno spettacolo che praticamente c'è stato imposto dal libro stesso, perché abbiamo trovato questo libro che si chiama Mille Volte No in un mercatino, così abbandonato, lo abbiamo preso, e queste mille voci che stavano dentro questo libro ci hanno detto di fare uno spettacolo perché altrimenti andavano nel dimenticatoio, e da lì nasce questa idea. E all'interno ci sono tutta una serie di figure, di donne che hanno fatto parte a pieno titolo della resistenza in vari modi: chi l'ha fatto salvando un bambino dalla deportazione, chi invece si trovava quel giorno quando è stata uccisa Teresa Gullace, oppure raccontiamo con un pezzo che si chiama Drin Drin la storia di Luciana Romoli e della sorella di Casa Albertone. Insomma, ci sono varie voci femminili, è uno spettacolo che poi parla tutto al femminile anche sul palcoscenico, perché abbiamo Alessandra, Sara e Maria, insomma, che ci raccontano queste storie. Collettivo, da quante persone è composto e quanti spettacoli avete in archivio? In questo momento abbiamo una formazione di queste 3 ragazze, anzi aggiungerei anche una quarta, Ersilia, la più piccoletta, che ha 5 anni, che lei sale sul palco facendo una ritmica su dei pezzi musicali, e vabbè, ci sono io, insomma, che dirigo. Poi abbiamo chi gira intorno a noi come un bellissimo collettivo, chi ci dà una mano per fare una cosa, chi per le scenografie, chi alla parte audio o video. È una formazione che ha visto anche 12-13 persone sul palco. Poi per motivi vari, perché se non sei un attore professionista e guadagni, insomma, qualcosa devi pur far nella vita per campare. E dato che il nostro teatro militante è un teatro che nasce dalla nostra volontà, qualcuno si è allontanato, essendo anche abbastanza grandi, qualcuno anche per motivi di salute, però poi qualcun altro si riaffaccia. È come raccontarti uno spaccio sociale che nasce dal basso. Uno spaccio sociale, come tu sai, ha vari componenti, poi in volta si ingrossa oppure perde alcuni dei militanti o alcune delle militanti, e questa è un po' la storia del collettivo, che ha visto appunto anche 13 persone sul palco per arrivare a 5-6, e adesso questa è l'ultima formazione ben strutturata. La nostra memoria vede tanti spettacoli in archivio, abbiamo lavorato anche su storie legate appunto agli anni 70, abbiamo fatto Il Fabbro, Il Ferroviere e Il Bandito, che racconta la storia di Salvatore Ricciardi, che conosciamo bene in radio, di Gigi Novelli e Sante Notar Nicola, per entrare in quello che erano gli ambiti degli anni 70. Poi, sempre legati agli anni 70, abbiamo fatto proprio in questi giorni al Centro Popolare del Tufello, abbiamo presentato uno spettacolo che si chiama Un Marziano alla Magliana, legato alla figura di Gerardo Lutt. Noi come collettivo raccontiamo la storia della Magliana, quelle che sono state le lotte, quelle che sono stati i personaggi, e soprattutto la figura centrale di Gerardo Lutt, insomma, che è stato uno dei grandi preti

con Bombo per presentare la campagna di crowdfunding Gaza Web fai crescere gli alberi della rete a Gaza, progetto Coltiva con noi gli alberi della rete. Ben trovato. Ciao a tutti. Raccontiamo di cosa si tratta. È molto semplice. Io faccio parte degli autistici e assieme ad altre persone, collaborando con ACS Italia, che è un'azienda che opera da più di 20 anni, cercare di trovare una soluzione a un problema fondamentale per le persone che sono in questo momento a casa. Quasi poter comunicare, raccontare, raggiungere i propri clienti in una zona o in un'altra. E quindi dovevamo cercare di trovare una soluzione perché loro potessero usare le linee di telefono, no? Poter accedere a internet, poter usare il telefono. Paltel, che è la linea compagnia telefonica, è stata distrutta dagli israeliani e quindi la soluzione per dare loro un accesso è di potersi collegare a una rete esterna, quella palestinese, per esempio quella israeliana o quella egiziana, a seconda di dove ti trovi dentro la striscia di Gaza. Per fare questo bisogna usare delle eSIM, che noi ci preoccupiamo di comprare per conto loro e che cerchiamo di far recapitare a loro usando WhatsApp, per esempio, usando canali di questo genere, perché loro possano poi usare questi telefoni che supportano le SIM per fare hotspot per le altre persone. Quindi l'idea è: noi ci prendiamo i costi, noi ci prendiamo il rischio di riuscire a far entrare queste cose dentro Gaza, sai che dentro Gaza non passa uno spillo, quindi le SIM in quanto immateriale è l'unica cosa che riusciamo a far passare, perché non possono fermare ancora, non ci hanno fermato in quello. E in questo modo diamo una possibilità ai nostri cooperanti che sono ancora nella striscia di Gaza, che sono Gazawi, di cercare di mettere in piedi dei secchielli che mettono in cima alle rovine delle case loro per poter dare un segnale nell'area circostante e permettere alle altre persone che non hanno un eSIM, che non hanno telefoni più moderni, ma hanno il loro vecchio caro telefono, si collegano con l'hotspot Wi-Fi e a quel punto hanno WhatsApp e possono chiamare i loro parenti, per esempio, cercare delle persone che non trovano, o se sono giornalisti raccontare quello che succede dentro, perché uno dei problemi di Gaza è che non si riesce a raccontare molto di quello che succede dentro, perché Israele non ha permesso niente finora. E quindi questo era il nostro tentativo da remoto, siccome non si può fare fisicamente nient'altro, almeno la nostra comprensione del problema, non si riesce a fare nient'altro da dove siamo. Questa era l'unica cosa che si poteva fare, l'unico atto materiale di solidarietà verso i Gazawi, verso i palestinesi tutti, e quindi ci siamo adoperati per questo. Quindi è una cooperazione tra più soggetti, di ACS Italia, autistici.org, che cercano di far andare questa cosa, con mille difficoltà ovviamente. Tu puoi immaginare un giorno tiri su un secchiello col telefono e mezz'ora dopo scappi e ci informi che i cecchini hanno deciso di prendere di mira quell'area perché si sono accorti che ci sono troppi civili che vanno a usare il telefono e quindi ti sparano perché non devi telefonare. È successo anche questo, abbiamo le foto, abbiamo i video e purtroppo succedono anche queste cose, se la prendono con chiunque, non è questione di terroristi, anche solo avere in mano un telefono di questi tempi a Gaza. Anche perché una delle operazioni dell'esercito israeliano è colpire deliberatamente tutte le infrastrutture di telecomunicazione. Sì. Sì, il problema delle comunicazioni con Israele è stato che anche gli operatori di Paltel, che è la compagnia telefonica di Gaza e del West Bank, quando informavano l'IDS, per esempio, che volevano sistemare un pezzo della loro rete e avevano tutti gli accordi e i permessi garantiti, eccetera, si sono ritrovati che gli operatori andavano sul luogo ma venivano ammazzati. Quindi diventavano delle trappole questi accordi. Sì, sì, venite, ah, ok, abbiamo capito, sono due operatori vostri, vengono là, fanno questo lavoro tecnico e poi li ammazzano. Queste cose sono già successe fin dall'inizio e quindi è difficile pensare di poter ripristinare alcunché. Mentre invece la nostra soluzione è un secchiello, un telefono, e poi ovviamente ci vuole la batteria della macchina che devi staccare per usarla per raccogliere energia, il pannello solare che trovi in mezzo alle rovine che ancora può funzionare, attaccarlo alla batteria, cioè c'è il problema di ricaricarli questi telefoni, quindi in mezzo alle macerie si trovano i pezzi che servono, perché far entrare oggetti come un pannello solare è proibito, non passa dai container, dai pochi camion che possono entrare, non entrano questo tipo di cose, e comunque adesso è il momento che è più importante che entrano medicine e cibo, perché ovviamente c'è un problema di 7 mesi in cui negano l'accesso del cibo, che è ancora più importante le comunicazioni, ma siccome far entrare il cibo vuol dire far entrare degli oggetti materiali, lì sei sotto il controllo israeliano, le SIM possiamo farle arrivare senza controlli e quindi è l'unica cosa che fisicamente si riesce a far entrare là, purtroppo. E c'è comunque il contatto con alcuni e alcune dentro? Certo, sì, perché ovviamente ACS sono 20 anni che lavora sul territorio di Gaza, quindi ci sono decine di persone Gazawe che hanno collaborato nel corso di questi 20 anni, sono cresciute nei progetti perché ACS parte da progetti che partono per i bambini, e quindi immaginati un bambino di 20 anni fa, oggi sono 20 anni che conosce OCS, e sono relazioni forti ovviamente, no? Relazioni di persone che ancora sono vive, perché molte persone purtroppo non sono più vive, però quelle che sono vive si riesce ancora ad avere un contatto grazie allo sporadico accesso che riescono a ottenere, e in quei momenti è quando noi riusciamo a ricevere da loro le foto o i video che dimostrano quello che sta succedendo dentro e che fanno vedere, per esempio, abbiamo installato questo hotspot, questo web3 adesso è funzionante, avevamo trovato una collaborazione con quelli della World Kitchen che sono stati poi ammazzati. Capisci, le cose sono molto variabili, però qualcuno ancora c'è ed è vivo, e speriamo di vederlo vivo anche alla fine di questo disastro. Ci dai tutti i riferimenti web per la campagna? Produzioni dal basso, dove abbiamo il nostro crowdfunding, che è appunto Gazza Web, gli alberi della rete. Poi acsitalia.it è il sito che c'è, proprio la pagina sul progetto di Gazza Web, assieme a tutti gli altri. ACS non si occupa solo di questo. Faceva tante cose, quando era possibile fare tante cose dentro Gaza per aiutare le persone in quella prigione a cielo aperto. Questi mi sembrano i due principali punti di ingresso per arrivare a noi e trovarci e eventualmente fare una donazione se si vuole supportare, o comunque almeno leggere e rendersi conto del lavoro di ACS Italia sul territorio gazzamo. E speriamo di poterlo ricominciare presto. La campagna di crowdfunding Gazza Web, fai crescere gli alberi della rete a Gaza, per il progetto Coltiva con noi gli alberi della rete. Un saluto e un ringraziamento a Bombo. A presto! Grazie a voi per lo spazio, grazie, ciao! Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana, per gli appuntamenti del teatro. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio e ancora una bella settimana teatrale a Roma, ci aspetta. Con piacere, insomma, andiamo ad aprirla ancora con la settimana primaverile a tutti gli effetti e partiamo dal nostro Teatro Torbella Monaca, dove abbiamo questa settimana due spettacoli. E il primo in scena da giovedì 2 a sabato 4 maggio è un testo di Massimiliano Bruno e la regia di Gianni Aureli, con in scena Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari. Si tratta di questo Ancora un attimo, è l'incontro tra una maestra elementare narcolettica che sempre preda di amnesie, che insomma cancella completamente la sua memoria, è uno scrittore di fiabe un po' bizzarre, che però è un cleptomane bugiardo. Effettivamente l'incontro tra i due è curioso, e andiamo a vedere che cosa ne nascerà per questo Ancora un attimo al Teatro Torbella Monaca, 2-4 di maggio. Seguirà sempre nello stesso teatro uno spettacolo dal titolo Game Lover di Alessandra Merico, che è in scena insieme a Enzo Casertano, il quale cura la regia. Insomma, abbiamo tutto tradotto loro. È una commedia, insomma, commedia brillante sulla vita di una coppia, che insomma, cioè, evidenziare sia il divertimento dell'essere insieme, sia la riflessione su quello che è il conflitto tra uomo e donna, insomma, che sempre c'è, sempre o chissà, non so, lasciamo la porta aperta. Dal 3 al 5 di maggio, quindi, Teatro Torbella Monaca per Game Lover. Segnalo che al Teatro Quirino, siccome insomma è appena stata insignita del Davide di Donatello alla carriera, Milena Vukotic, siccome insomma questo ci fa piacere, la segnaliamo in scena per questa settimana dal 30 aprile al 5 maggio con A Spasso con Daisy. Milena Vukotic con Daisy. Daisy è un'anziana maestra in pensione, ricca signora ebrea che vuole apparire povera, e quindi insomma si crea quindi un racconto umoristico ma anche abbastanza delicato, insomma, perché il tema del razzismo nell'America del dopoguerra è ancora molto, molto forte. Tra l'altro c'è stato un adattamento cinematografico di questo testo di Alfred Hury con Morgan Freeman e Jessica Tandy ormai un bel po' di anni fa, A Spasso con Daisy era effettivamente un titolo che avevo nella memoria. Poi Teatro Quarticciolo, perché andiamo a vedere ben due lavori. Il primo è firmato da Nicola Galli di Erdanza, entrambi diciamo gli appuntamenti, quello del 4 appunto con Nicola Galli e poi quello successivo del 5, sono nell'ambito della stagione di danza 2024 di Orbita Spellbound, cura di Valentina Marini, ovvero sia Vertigine. Il 4 maggio appunto andremo a vedere Nicola Galli con questo Ultra, Galli cura il concept di questo lavoro, di questo allestimento di danza, la cui creazione è immaginate insieme a Massimo Monticelli. C'è il sottosuolo, una, un buco buio pieno di terra, che al cui interno c'è un ecosistema invisibile in cui accadono molte cose, insomma, anche se non sono visibili in quel momento. Quindi è una riflessione sulla trasformazione della materia, sulle abilità sensoriali, percettive, cognitive dei regni, della congiunzione tra i regni biologici, ed è molto affascinante in realtà, insomma, andare a evidenziare quanto la danza sta facendo delle indagini anche filosofiche molto, molto importanti, molto, molto legate al contemporaneo. Quindi Nicola Galli, 4 di maggio al Teatro Quarticciolo. Segue il 5 di maggio alle ore 17 la prima assoluta di Billy di Nicola Cisternino, Twain, che presenta questo lavoro sempre nell'ambito di Vertigine. Nicola Simone Cisternino, che presenta insomma la prima tappa di questo nuovo percorso di creazione sull'archetipo del re primo e ultimo tra gli uomini. Segue poi il lavoro Fallen Angels e il mittico con Where You Can Find Me Disappearance di Michael Incarbone, ed è una sinfonia sui corpi che cadono nel presente, immortalati in una sospensione ipercinetica tra alto e basso, ascesa e rovina. Questo è ciò che appunto andiamo a vedere al Teatro Tor Bella Monaca. Io proseguo con Le Carrozzerie Notte, perché 3, 4, 5 maggio vedremo in scena Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa con questo ultimo lavoro, Solo quando lavoro sono felice, dedicato appunto a che ruolo abbia il lavoro nella nostra vita, se è una parte della vita oppure proprio la vita stessa, quanto e come ci definisce il lavoro, che è un po' diciamo degli argomenti principali della nostra vita sociale, di relazione. Questo ed altre domande, 3, 4, 5 maggio alle Carrozzerie Notte, Solo quando lavoro sono felice. Procediamo, perché direi che è il caso di andare al Teatro Belli, dove Una domanda di matrimonio dal 3 al 5 maggio, presentato diciamo dalla regia di Magda Mercatali, porta l'opera di Anton Chekhov sul palco appunto del Teatro Belli. Si tratta insomma di un lavoro che appunto prende da Chekhov l'idea originale, ma in scena per questi tre giorni avremo attori piuttosto particolari, insomma, che vengono da diverse culture. Sono attori che provengono dal Mali, dal Senegal, dall'Iran, Ucraina, Marocco, Ecuador, Capo Verde, Burkina Faso. Quindi l'incontro di queste varie culture all'interno di un luogo che chiamiamo teatro è ancora qualcosa di straordinario e di sorprendente. Quindi Una domanda di matrimonio, che è appunto un gioioso ironico racconto, ci permette di entrare a contatto con usanze e riti di paesi diversi che si confrontano sulla scena. Magda Mercatali dunque con molti attori di varia provenienza, cura coordinati appunto da lei. Sono i 9 studenti attori migranti del suo corso di studi, e appunto al Teatro Belli dal 3 al 5 maggio. Poi procediamo al Teatro Fortezza Est, 2, 3, 4 maggio, per questo lavoro di Leonardo Bianchi e Gianmaria Labanchi, che si chiama La Sirenetta o L'abissale solitudine di un'anima androgina. È un lavoro che torna ad interrogarsi sull'identità di genere, e lo fa attraverso uno spettacolo di parola, di musica, un live set ambientato tra il fondo di un mare artificiale e la terra ferma, appunto la sirenetta, di per sé un personaggio queer per eccellenza, insomma, è quantomeno un simbolo della cultura queer. 2, 3, 4 maggio al Teatro Fortezza Est. Procediamo ancora, Esterino di Marco Rinaldi con la regia di Paolo Vanacore, sarà in scena al Teatro 7 dal 2 al 12 di maggio, una commedia insomma su un bimbo curioso e vivace di 8 anni che mette in crisi il mondo degli adulti. E poi andiamo al Teatro dello Spazio di Roma del 3 al 5 maggio per questo spettacolo scritto e diretto da Massimo Odierna, ovvero sia la figlia di Kyoto Zhang. In scena c'è anche Enoch Marrella, insomma, che abbiamo visto spesso negli ultimi tempi nei suoi lavori. E uno spettacolo che indaga le miserie umane e le inquietudini dei nostri giorni, evidenziando insomma, la vita di certi personaggi esasperati in situazioni paradossali. Questo appunto dal 3 al 5 maggio al Teatro Lo Spazio. E io continuo perché il 4 di maggio in Teatro Argentina ci sarà Il Sogno del Principe, un spettacolo di danza tradizionale coreana portato dal National Gugak Center sul palco appunto del Teatro Argentina in data unica. Racconta la giornata di un principe che, dopo aver completato la cerimonia per il raggiungimento della maggiore età, lascia il palazzo e si unisce al popolo per conoscere i gioie e i dolori di chi insomma dovrà un giorno presto governare. Quindi molto interessante in realtà. E Teatro Argentina, Il Sogno del Principe, 4 di maggio. Al Basilica invece torna a Roma Elena Bucci, che porta per la prima volta questo lavoro Canto alle vite infinite, dal 3 al 5 maggio, progetto Terra Mater Matrigna. Elena Bucci con pianoforte fisarmonica in scena di Cristian Ravaglioli, per appunto Le Belle Bandiere, che sono nome di compagnia di Elena Bucci, presenta questo lavoro questo lavoro che si articola in relazione ai fantasmi che popolano insomma le nostre vite, le hanno popolate nel passato, restano insomma in fondo nelle case, nei palazzi, negli spazi che impariamo via via ad abitare. E mi fa piacere che questo lavoro sia dedicato a un grande attore scomparso e che insomma, abbiamo ammirato in tanti film, che è Ivano Mariscotti. Tiene nella buccia evidentemente Canto alle vite infinite, dal 3 al 5 maggio, in dedica a Ivano Mariscotti al Teatro Basilica. Al Parioli anche andiamo questa settimana, perché torna alla regia Elena Sbardella, che vedremo insomma in altri spettacoli ormai anni or sono. Dal 2 al 5 maggio presenta Le Assaggiatrici di Hitler, questo lavoro con quattro attrici, di cui ha curato anche l'adattamento, la traduzione, tratto da Hitler Tasters di Michelle Colos Brooks. Le Assaggiatrici di Hitler, effettivamente, appunto, è il titolo italiano. Noi andremo a vederlo. Teatro Parioli, dal 2 al 5 di maggio. Centrale Trieste, perché 3, 4 e 5 maggio ci saranno alcuni lavori, 3 più che altro, perché insomma, 5 sì, torna al spettacolo per i più piccoli alle 16.30, Giù va il mare e le nuvole, a cura di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, mentre segnalo il 3 di maggio alle ore 21, uno spettacolo che ha girato e continua a girare in Italia, la regia di Clara Sancricca, la produzione Controcanto Collettivo, Salto di Specie, uno spettacolo che insomma ha avuto più di un riconoscimento in giro per l'Italia, un'indagine sul tema dell'empatia tra esseri viventi, sui meccanismi che ne favoriscono o ne arrestano il flusso. La relazione tra uomo e animale, no? È un paradosso, effettivamente, c'è un rapporto stretto con alcune specie di animali, invece lo sfruttamento di altre. E questo discorso sull'empatia dedicato al mondo animale è piuttosto interessante da mettere a fuoco. 3 maggio, ore 21, al Teatro Centrale Trieste. Ancora andiamo al Teatro India per le ultime due cose da ricordare questa settimana. Teatro India, dal giovedì 2 al 12 maggio, Il Canto dei Giganti, progetto di Manuela Mandracchia, Fabio Cucifoglia, dedicato ai giganti della montagna, di Luigi Pirandello, l'opera non finita che Pirandello consegnò all'ultimissima parte della sua vita, in qualche modo ha a che vedere con la relazione con l'aldilà, con i giganti, con una materia informe in cui si racconta la crisi dell'uomo e in qualche modo anche dell'artista. E in questo sogno visionario musicale, Mandracchia, Cucifoglia, insomma, cercano di far emergere anche la propria ossessione e la poesia come ultimo atto di salvezza per l'umanità. 12 maggio, Il Canto dei Giganti, dedicato a Pirandello al Teatro India. Ultimissimo invece appuntamento che ricordo è l'avvio a Roma del Festival in Divenire, lo spazio Diamante. Già c'è stata ieri serata di apertura con Filippo Timi, che è l'ospite, diciamo, di questa edizione, che ha presentato una propria ideazione, precisamente studio per una danza dei sette veli, con questo collettivo artistico composto da Timi con altri tanti attori, e dedicato appunto a un tema classico, mentre invece inizierà poi dal giorno successivo, da oggi, la gara, insomma, delle varie compagnie per l'edizione di quest'anno, che è la quinta edizione, e la premiazione finale sarà il 12 di maggio. Invito ad andare sul sito dello Spazio Diamante per andare a vedere tutte le compagnie in gara e come verranno presentate al pubblico in questi giorni. Il 12 di maggio Pia Lanciotti curerà la premiazione per chi vincerà questa nuova edizione. E con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.